ma YouTube è questa, come ho smollato il bulloncino, quello che è bloccato, che c'è la base, sembrava un pisciatoio, sembrava, cazzo, ma che antenna stai usando tu adesso, Antonetta, il TRM? 700, l'ho smontata, l'ho sigillata con l'acqua vulcanizzante, sopra al 100, per essere più sicuro, perché c'era riempita l'acqua, non ci va a capire perché, mi vedevo questa acqua in terra, però non è che arrivava dall'esterno del cavo, bensì dalla calza, capito, dentro la calza, in pratica scendeva a goccia, e mi si riempiva il PL, e poi scendeva in terra. Quindi mi avevo fatto anche la pantera, infatti immediatamente sono salito e ci ho messo un altro vulcanizzato, perché avevo dimenticato di metterlo, l'avevo fatto provvisore così. Adesso già va bene, meno male che non si è sinato il cavo del 1058. Buttaci via tutto, Tino. Uova. Sarei voluto diciamo con Antonello provare dal furgone a vedere. Sì, già va bene. Tu dovresti arrivare. Vabbè, ma è lui che non sta arrivando però, eh. Cos'hai tu, Antonella? La X300 hai? C'ho la X300 e poi c'ho la Dintiva 620, quella grossa, no? Quella che alla fine sembra l'antenna francese, non so se te la ricordi, che mancavano per avere la TV francese. C'ho quella 620 grossa, pesa 4 kg e mezzo pesa quella direttiva, però è staccata, ce l'ho netta la fila quella antenna lì. L'avevo installata l'altro giorno per provarla, ho detto che funziona benissimo. Adesso mi voglio buscare il motore in seguito. Il prossimo mese mi prendevo il motore con quattro box. Così l'aggancio e dopo la X700 la posso girare dove voglio. Così almeno parlo con i francesi, perché l'altra volta ho parlato con i francesi, con la Francia io, l'anno scorso. Con quelle l'XN, con l'apparecchio veicolare di 50. Sì, così poi fai girare le Wallace. Ma futtidini. Guarda, sto notando una cosa, che perlomeno diciamo in locale, sta andando meglio il mazzucchino, capì, che tutte queste antenne X510, la 300, la 200, ma tu hai visto come esco io dal furgone con 40 minuti? In questa frequenza ci vogliono quelle antenne corte, non è che i buoni chissà cosa. Io ce l'ho la Vito, cosa ho, ma sono mezzo senza una pattuglia da mettere farne una uguale a quella che c'è nel furgone e metterla, che va meglio. Sì, e tanto ce l'ho io la cosa, già ne escono due, di quelle. No, se ne esce una. Ma la bricco me lo prendo, e ne facciamo due. Però non mi sto accorgendo che vanno meglio sì. Antonello, tu dovresti provare quella che sta dicendo Tino, una J-Pole per la 446, piccola, non la vedi neanche, viaggia, ho visto quella di Tino, come tira, e se la vedi sembra un rotolo, sembra un affare all'interno di un rotolo di Scotex. Sì, ma va bene anche in 146, Antonè. Ho capito, ciò la diamo anche ciò, se voglio usare quella. Prima una volta che ho usato il PMR, usavo la diamo, io pensavo a fianco della Mantova, figurati, e parlavo con tutti, ci va benissimo. Tu immaginati con l'X300 io accompagno il PMR sul canale 7, accompagno a Pietro che ha la diamantomia magnetica, lo accompagno fino al tempio dove lavora lui facendo la vigilanza notturna, quindi figurati. Guarda, adesso ti faccio una prova, Antonello, giusto per... su che canale sei tu? Sempre 446-0875. 081.25, insomma. Canale 7 in pratica. Ogni tanto cambi, porca miseria. Aspetta un attimino, ti faccio una prova qua. Allora, vediamo un attimino. 4-6, ti chiamo con la 510. 0, vediamo se riesco a fare. 0,75, porca miseria. Devi mettere lo step, adesso non mi ricordo quanto era la delta. 6,25 o 6, mettiamo, non me lo ricordo più. Non mi senti? Lo so, perché io sono arrivo a 65, devo entrare nel menu, qua è una radio un po' complicata, non è un muffin questo. Mi sa che Antonio non ascolta nessuno. No, infatti non sento nessuno. Antonio. Dimmi. Ti sto chiamando anche io, guarda dove se mi senti. Schiaccia la portata un attimino. 1, 2, 3, sto parlando in diretta, ecco, era proprio 1.25. No, non ti arrivo. Infatti non ti sento. Non mi senti? Nada, non ti scuccio. Con Marco, quando si mette qua sua balai, arrivava fondo scala qua. Ho capito, però... dovresti sentire, a me mi dovresti sentire. Vabbè, ma tu sei all'interno, se fosse stata probabilmente l'avrei spostata verso il sorso, ti avresti detto benissimo, sta tranquillo, capito? Devo orientarla dalla parte dove sta lavorando il Tino adesso, in pratica, si è aperta l'antenna la direttiva, devo girarla dove lavora il Tino, allora il sorso lo becco in pieno. Sì, però non stiamo parlando di direttive, Santone, stiamo parlando di antenne. Cavolo, tu non mi ascolti neanche con la 510, sto usando 50 watt. Questa sento adesso. Ti ho detto, dammi un canale che provo a mettere 0,26, 0,81, non fa 0,25, perché lo step lo devo impostare. Vabbè. Nello 60 sono pare che avevo provato poco fa, se lo ricordo male, ti sentivo. Prova ad andare in ricezione almeno, 4,30, 0,25. No, 4,30 tu sei mancate, no? 4,46, 0,78, 0,75 fai. Va bene. Dovresti sentirmi. Quanto? 4,46, 0,68 vai. No, vai 0,75. Prova a andare 0,75. Sì, 43, sì, 31, sì, 0,18, 0,6, e poi basta. A meno che lo fai 4,33, 0,75, quello ce l'ho. 4,46, 0,75. Falli un reset a quella radio, Antonella, a tutti i dilli, che poi funziona normale. Aspetta a vedere se c'è riuscito. 4,46, 0,75, ci sei? Aspetta che c'è però. Sì, quasi la pazienza, aspetta. Un minuto. Prova a mettere anche tu. Vai via a vedere. Con il 500 sì. Sì. No, mi arrivi. Nulla? Segnale 3. Non è per quella frequenza, dai. Per quello che metti 4,40. 4,30. Guarda Franco, ti stai dicendo di schiacciare, Mitti. Io non lo sento. Fatto. è uscito, guarda, poi te lo 75 sono. Boh, io non sento neanche a Franco. Antonè, dove sei tu? 446075? Eia, 446075 sono adesso. Sto parlando adesso, guarda se mi senti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, nulla, nulla, nulla. Ma va bene. 085. L'importante è uscire al torre. Ma stai uscendo con quel buffing, Antonè? Poi sto uscendo. Sto uscendo con l'apparecchio. Passa via due in onda. Adesso però ho sentito parlare proprio qui sotto. Devo schiacciare chi è? Hai inteso il segnale, ma non so chi è. Mi dove? L'ho sentito. Basta, ma l'ho sentito. Sì, Antonè, ma se non mi rispondi, sono mezz'ora Antonello, Antonello, ma non mi rispondi. L'ho inteso, ma basta, non è Pino. Ma è importante perché c'è Antonello, è fuso, lasciatelo dire da me, non c'è neanche l'importante. Sì, sto dicendo che non è fuso, già funziona. Ma è possibile che non ascolti a nessuno? Sì, ho sentito a Tino, mi stava chiamando adesso, ma lo sento basso, l'ho sentito basso, capito? Sono 446075, giusto adesso. Adesso mi senti, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Antonello. A Tino lo sento benissimo. E lo senti a Tino? Sì, tu Antonello, ascoltami, ma tu sei sicuro che quella radio stia uscendo di potenza? Io a Tino lo sento quando parla, quindi. Sì, ma tu sei sicuro che quella radio stia uscendo di potenza? Via, se poco fa mi ha risposto, quando stavamo facendo le prove. Io, adesso a Tino lo sento, adesso non so che antenna stai usando Tino. Non lo so ancora, però sembra una cosa strana, a me dovresti, anche a me dovresti sentire. No, non ti sento a te, sento a te che parla con te, cioè a te proprio non ti sento, sento lui che ti risponde a te e ti ha detto che entrate in casa, stava passando la potenza. Guarda, aspetta, io so che se mi senti adesso. Ma devi abbassare l'amplificazione. Antonè. Dimmi tutto, io a te ti sento. Dimmi. Ti sta chiamando Gavino in 446075. Beh, non mi arriva. Per forza. Vabbè, ragazzi, no. Ora buche mobili. Non mi va a me la prima proprio, Tu sì Tino, ma lui capisce per niente. Poco Franco. No, c'è il portatile che ha problemi, secondo me, perché è impossibile che non senti. Qua arrivano tutti fondo scala, meno è che. Ma tu c'hai tutti attaccati, che cosa c'è? È la posizione che c'ho io anche. Io sento a te, figurati. Antonello, non so dove ho sentito io a Franco, e lui sta facendo con mezzo basso, ma tu più bella. Cosa vuol dire? A me non mi arriva per niente qua. Ce l'ho acceso, mi qua non parla di Tino. Provo a chiamare su 446275 che ti mando i 27 in diretta. Sai che arrivi qua. Gli altri non c'è niente. No, quel portatile lo devi guardare perché non è il problema nostro, il problema è il tuo problema, di quel portatile. Devi guardare come l'hai impostato. È possibile che non si possa impostare. Magari se lui dice che hai impostato lo squelch troppo alto potresti avere anche ragione, mi devi strano. Ma lo squelch fa, tu hai lo squelch a secca. Vabbè ragazzi, io mi devo mollare perché devo preparare un casino di cose per domani ancora e devo cucinare ancora la roba del cane, dai. Vi saluto perché sennò faccio tardi e domani mattina devo alzare presto. E anche io chiudo, perché la sveglia è presto domani mattina anche per me. Va bene, ne approfitto io il mic, dai. Ci allora vi sentiamo domani. Ciao, vi sentiamo domani. Ciao Tino, ciao Franco, ciao Antonello. E buonanotte anche a chi va, a chi l'ascolto. Non andate nelle frequenze che abbiamo detto, perché è andato, cambiamo e non ci sentite. Ciao, buonanotte, riprenditi. Eia, dai, mollo anche io. Vabbè, io adesso il monitor 446, 275, poi ci aggiorniamo, dai. Va bene, dai. Vi saluto e ci sentiamo alle prossime, dai. Domani magari un altro giorno si vedrà. Ok, vai Franco. Eia, ciao, vai. Buonanotte, allora, ben tutto, ci ascoltiamo. Buona giornata per domani a tutti e due. E saluto anche a Correa. Ci ascoltiamo alle prossime. Buon lavoro. Ciao ragazzi. Ciao Fra, ciao Gabino, ciao Tino. Domani sa questo quanto stacco la X700 e ci mette la direttiva. E appunto la parte tua Fra, così facciamo la prova. Capace che c'è l'X300 magari che non c'è per ricezione. La prossima ragazza, niente di strano. Ok, così facciamo la prova. Va bene Antonello, dai. Ce la riascoltiamo domani, se coincide, tanto noi siamo sempre qua dopo cena. Se vuoi entrare facciamo le prove. Ciao Antonello, buonanotte. Io faccio appuntamento a prova prova, se faccio già lo vedo la prova, faccio appuntamento a prova prova, se che di solito la direttiva l'avevo puntata a Monteoro, quindi non faccio altro che girare la parapena, a parte la veloce, e ti becco in pieno, ti becco. Becco la zona industriale, eccetera, eccetera, quindi già basta guardia. Sa va bene, dai. Antone. Ce ne ascoltiamo le prossime, ce ne ascoltiamo le prossime. Buonanotte, buonanotte a tutti, ciao. D'accordo, ok, ciao, ciao, ciao. Sì, io, ciao. Antone. Mi fa. Allora, quanto fatto, non è possibile, tutte sono state fatte a computer, sono state aperte a computer. Però, col menu, puoi entrare in tutti i parametri, puoi entrare e modificarli. Sono riuscito ad entrare in questo qua, ho schiacciato il menu, cioè memoria, e mi sono impostato la frequenza con la tastiera, capito, con le freccette. Attivo ho sentito, basso ma l'ho sentito. Capito? Sto pensando che sia l'X300 magari come è entrata l'acqua, sia ancora ossidata, capito? E quindi non lavora bene. Provo a cambiare l'antenna, ci metto la dimettiva e per appunto la produttore. Se vediamo se funziona, dovrebbe funzionare benissimo perché c'è un altro guadagno con la dimettiva, la metti per piccare come la usavo una volta, capito? Perché non c'è niente, la panica apposta è importante. Capo, perché è una cosa strana che non ci ascolti, capito? È una cosa strana. Diciamo che ho una penna come ce l'hai tu, aspetta, non ascolti a noi. Ma per me è tutto strano, o c'è problemi la radio, o c'è problemi l'antenna allora. Ah, deve avere problemi l'antenna, sta tranquillo, perché parlavamo tutti di lì, se ti dico di bene, quindi deve essere sentato la ex 300 che bisogna smontarla da vece la vetrovesia, e capito, deve essere lì il problema, perché lì c'è il contatto di tutto, capito? Sì, vabbè, la 300 non è come la 200, a metà lo svitti e togli la roba là dentro. Sì, a metà lo svitto e me esce la carica che passi lassù, però quella all'interno penso che parte dalla base sino a metà, però non riesce a avere niente, capito, dentro. Il discorso vorrebbe scaldata e la resina lì e oppure gli metto mi compro il CRC, lo butto all'interno, glielo faccio circolare bene in modo che si stoppa l'ossido, capito? presentato l'antenna, il problema, perché l'altro giorno quando mi sono divertito la sentivo benissimo, addirittura ci ho messo qualcosa, la Mercury, e la Mercury funzionava bene, sentivo quelli che parlavano da Pedalietta, hai capito, sentivo benissimo. Lo stesso volano della direttiva ci avverrà, quello che non ci mette la Mercury. Intanto sono già in terra a me, faccio altro che togliere una e metterci l'altra, sarei là sopra, perché funziona. Dicevo benissimo, dicevo a tutti. Chiaro. Sì. No, però sai perché? Io una volta l'ho smontata la mia, gli ho messo dentro un po' di antiossidante, l'ho pulita, poi l'ho messa a freccia in giù, l'ho messa, si è asciugata e poi l'ho ripiazzata. Io ho messo il CRC, l'ho messo, l'ho lasciato pulitamente, poi l'ho messa a freccia in giù, ma evidentemente siccome mi scendeva il geometro, l'acqua, l'antenna era tutta piena d'acqua dentro, hai capito? Come ho tolto la vettina, hai capito qual è la vettina dove c'è la gaffa, come ho tolto ancora la vettina lì, immediatamente sembrava un pisciatoio, sembrava l'antenna, capito? C'era un po' di acqua, era proprio piena. Quindi senz'altro è ossidata, perché ho visto che l'attacco BNC e l'attacco del PL è bianco qua, adesso bisogna che domani mattina lo pulisco bene con lo, come si chiama, con la, con il disossidante e resto, e gli passo la spazzola, gli passo, per togliere l'ossido, capito? Secondo me è comunque l'antenna, vedrai domani quando ci metto la antenna sopra, la direttiva e la punta produttore, se mi dice detto benissimo, vedrai. Chiappa, sì. No, sai Rosè, che evidentemente che tu quando l'hai piazzata quella lì, l'hai solo stretta, hai chiuso un coso, però non l'hai vulcanizzata, perché se tu la vulcanizzi dove c'è la giuntura, lì dove la chiudi, non entra acqua, non entra da altre parti acqua. La prima volta quando l'ho chiusa ci avevo messo il silicone, hai capito cos'è il discorso? Silicone alla base e silicone sopra. Solo che il silicone dopo un po' di tempo si apre, capito? Dal caldo al freddo si dilata e quindi evidentemente è entrata tutta l'acqua. Se mi è andata in casa, te sto dicendo, ho controllato il cavo all'esterno dove c'era qua e non c'era niente, era asciutto. In pratica la calza all'interno era bagnata, tutta bagnata in pratica. Hai capito? Mi scendeva l'acqua dentro la calza, seguivo il piede, il coso da lassù e mi scendeva l'acqua dentro casa. E sono accorto da quello, infatti immediatamente avevo buttato a terra e diciamo che poi ho preso, ho pulito bene il piede sopra, e ci ho messo il dietro e funzionava benissimo l'altro giorno. Poi ho detto, adesso ci rimetto un po' la X300, vediamo se funziona. Forse l'ha provato a schiacciare e ho visto se mi sembrava che funzionava. Perché sul canale Coso c'era quelli del Faggetta, capito? Massimo risentivo. Loro segnavano le grandi gare come l'altra volta, che si dico tutti. Quindi, evidentemente è ossidata, senz'altro. Perché sta schiacciando e di solito rispondevano, capito? Adesso invece non stavano rispondendo per niente, quindi vabbè, la parte dell'orario adesso. Comunque domani cambia antenna, facciamo una prova. Cappa, sì. E silicone, lo sai che dall'estate, dal caldo al freddo, poi si allarga, perché è gommoso, e poi l'acqua quando scende entra lo stesso, entra. E silicone ci buono metterglielo, silicone, però sopra la silicone gli dovevi mettere il nastro vulcanizzante, bello stretto, tirato, capito? Tu mettigli sempre il nastro vulcanizzante, non sbagli. E io faccio così per quello. Adesso gli ho messo il mantellino in gomma, gli ho messo. Ciao Antonio, buonanotte. Ehi, ciao Franco, vai. Buonanotte.